Letture di Radio 24. Nell'ambito di un'iniziativa di recupero del romanzo gotico vittoriano, la casa editrice Gargoyle pubblica Vendetta, scritto da Maria Corelli nel 1886. Protagonista del romanzo è il conte Fabio Romani, che racconta in prima persona la terribile esperienza vissuta durante l'epidemia di colera scoppiata a Napoli in quegli anni. Tutti sanno cosa successe a Napoli nell'estate del 1884. I giornali di ogni paese erano tappezzati con la storia dei suoi orrori. Il colera procedeva come un demone distruttore. Al suo tocco fulminante, decine di persone, giovani e vecchie, cadevano morte per le strade. Questa crudele malattia, nata dallo sporco e dalla criminale inosservanza delle precauzioni sanitarie, si espanse nella città con una rapidità impressionante e, peggiore dell'epidemia, fu il panico che essa creò. L'indimenticabile eroismo di Re Umberto sortì effetto sulle classi più elevate, mentre sul popolo napoletano continuavano a dominare paura abietta, volgare superstizione e sommo egoismo. A Napoli, agosto fu il mese peggiore dell'estate. Il colera avanzava e la gente sembrava letteralmente impazzita dal terrore. Alcune persone, colte da un selvaggio spirito di sprezzo del pericolo, si tuffavano in orge di vizio e intemperanza, avventatamente, senza considerare le conseguenze. Una mattina mi svegliai prima del solito e l'idea di un po' di frescura mi tentò di andare a passeggiare in giardino. Perduto in un corso di pensieri impegnativi ma piacevoli, vagabondai più lontano di quanto intendessi fare e mi trovai alla fine su un sentiero laterale, in disuso da molto tempo dagli abitanti della casa, un viottolo ventoso che scendeva verso il porto. Ero in procinto di tornare sui miei passi quando fui sorpreso da un suono improvviso. Era un gemito sommesso di intenso dolore, un grido soffocato che sembrava estorto a qualche animale sotto tortura. Girai nella direzione da cui proveniva e, sdraiato bocconi sull'erba, vidi un ragazzo, un giovane fruttivendolo di 11 o 12 anni. Egli si contorse in modo convulso e si girò verso di me. Aveva un bel viso, anche se livido di tormento. «La pestilenza, signore», gemette. «La pestilenza. Allontanatevi da me, per l'amor di Dio. Sto morendo». Il piccolo mi guardò con uno sguardo patetico e vago, cercando di sorridere. Si indicò la gola e fece uno sforzo per parlare, ma senza successo. Poi si accovacciò sull'erba e si contorse come un animale ferito a morte. Decisi di correre al porto. Una volta arrivato, trovai alcuni uomini dall'aria spaventata, i quali, dopo aver raccontato del mio incontro, chiesi aiuto. Tutti si fecero indietro. Nessuno di loro mi avrebbe accompagnato. Restarono freddi anche davanti a loro. Maledicendo la loro codardia, mi allontanai in fretta in cerca di un medico. Nonostante il caldo e l'odore fetido delle strade cotte dal sole mi provocassero un senso di malessere e mi sentissi debole, incurante di tutti i pericoli per la mia persona, mi domandai cosa potessi fare per ottenere soccorso. Una voce profonda e gentile mi salutò. «Cercate aiuto, figliolo!» Guardai in su. Un monaco alto, con un cappuccio che ne copriva in parte i tratti pallidi ma risoluti, era accanto a me. Uno di quegli eroi che, per amore di Cristo, si facevano avanti in quei momenti terribili e affrontavano la pestilenza senza paura, mentre i vili senza Dio fuggivano come lepri atterrite al minimo accenno di pericolo. Lo salutai con un inchino e spiegai perché ero lì. «Andrò immediatamente», disse con un accento di pietà nella voce, «ma temo il peggio. Ho dei rimedi con me. Forse non è troppo tardi». «Vi accompagnerò», mi offrì subito. «Non si dovrebbe lasciar morire neanche un cane senza aiuto. Figuriamoci quel povero ragazzo che sembra così solo». «Non capisco il panico che regna in città. La pestilenza è favorita dalla codardia». «Naturalmente», rispose calmo. «Ma cosa possiamo fare? Le persone a Napoli amano il piacere. I loro cuori sono radicati soltanto in questa vita e quando la morte incombe su di loro si comportano come bambini spaventati da un'ombra scura. La religione stessa», e qui sospirò profondamente, «non ha presa su di loro». «Ma a voi, padre?» Iniziai, ma subito dopo mi fermai a causa di un acuto dolore pulsante alle tempie. «Io sono il servo di Cristo», affermò serio. «Come tale, la pestilenza non mi fa paura. Indegno come sono, per amore del mio maestro, sono pronto, anzi desideroso, di affrontare la morte». Parlava in maniera sicura, ma senza arroganza. Lo guardai con una certa ammirazione e stavo per rispondergli, quando uno strano capogiro mi colse e gli afferrai il braccio per evitare di cadere. La strada ondeggiava come una nave in mare aperto e il cielo vorticava intorno a me in cerchi di fuoco azzurro. Il malessere lentamente scemò. Quindi udii, come se provenisse da una grande distanza, la voce del monaco che mi chiedeva ansiosamente che cosa avessi. Mi sforzai di sorridere. «È il caldo, credo», risposi con una voce fioca come quella di un uomo molto anziano. «Mi sento debole e ho le vertigini. È meglio che mi lasciate qui. Andate a vedere il ragazzo». «Oh mio Dio!» Quest'ultima esclamazione fu di pura angoscia. Le mie membra si rifiutavano di sorreggermi e una fitta, fredda e feroce come se un ferro fosse stato spinto nel mio corpo, mi fece cadere sul selciato in una sorta di convulsione. Seguì un lungo periodo di quiete e ombra. Sembrava che fossi caduto in un profondo pozzo di delizioso oblio e oscurità. Mi svegliai. Dio misericordioso! Dove mi trovavo? In quale orribile ambiente? In quale densa oscurità? Lentamente, mentre riprendevo i sensi, ricordai la mia recente malattia. Che cosa mi avevano fatto? Man mano mi resi conto che giacevo supino. Il divano doveva essere molto duro. Perché mi avevano tolto i cuscini da sotto la testa? Una sensazione di pizzicore mi attraversò le vene. Sentivo le mani strane. Erano calde, il mio battito era forte, anche se irregolare. Ma che cos'era che mi impediva di respirare? Aria, ho bisogno di aria. Stesi le braccia e... Orrore. Urtai qualcosa di duro sopra di me. La verità mi colpì come un fulmine. Ero stato sepolto. Sepolto vivo. La prigione di legno che mi rinchiudeva era una bara. Una frenesia più grande di quella di una tigre infuriata si impossessò di me. Con le mani e le unghie percossi e graffiai le maledette assi, con tutta l'energia delle braccia e delle spalle, faticai per cercare di sfondare il coperchio chiuso. I miei sforzi furono vani. Diventavo sempre più pazzo di rabbia e di terrore. Mi fermai, lottando per respirare. Poi, facendomi animo per un altro tentativo, mi scagliai con tutta la forza dell'agonia e della disperazione contro un lato della mia stretta prigione. Si incrinò e si aprì. Riuscivo a respirare meglio e anche nello stupore delle mie paure ero cosciente che c'era aria. Sì, l'aria benedetta entrava da qualche parte. Rianimato e incoraggiato, cercai a tentoni con le mani la fessura che avevo creato e poi, con una rapidità e un'ostinazione disperate, tirai e spinsi il legno, finché all'improvviso l'intero fianco della cassa cedette e fui in grado di forzare il coperchio. Stesi le braccia. Non c'era terra a impedire i movimenti. Non sentivo altro che aria, solo aria. Cedetti al primo impulso, saltai fuori dall'odiosa bara e precipitai. Caddi da un'altezza esigua, ferendomi le mani e le ginocchia su quella che sembrava una pavimentazione di pietra. Con qualche difficoltà e dolore, mi sedetti laddove ero caduto. Sentivo le membra rigide e bloccate, oltre che ferite, e tremavo come se avessi la febbre alta. Ma i miei sensi erano pronti. L'aggrovigliata matassa dei miei pensieri disordinati diventava chiara e razionale. La mia folle agitazione si stava man mano calmando e iniziai a considerare la mia condizione. «Dio dall'infinita misericordia!» gridai. «Salvatore del mondo! Per le anime dei sacri defunti che sono affidati alla tua santa custodia, abbi pietà di me!» Poiché avevo pronunciato queste parole ad alta voce, il loro suono lamentoso riecheggiò per le tetre arcate della cripta, carico di un terrore irreale per le mie stesse orecchie. «Che cos'è questa voce di giubilo lontana e squillante?» Sollevai il capo e ascoltai, rapito. «Cip cip, trillilli!» Era un usignolo. Uccello familiare, delizioso, dalla voce d'angelo. Una corrente di forza e di coraggio mi rinvigorì e mi venne in mente una nuova idea. Decisi di seguire la voce dell'usignolo. Continuava a cantare dolcemente, in modo incoraggiante, e ripresi il mio vagare attraverso l'oscurità. Immaginai che l'uccello fosse posato su uno degli alberi fuori dall'entrata della cripta e che se avessi tentato di seguirne la voce, avrei raggiunto la scala che stavo cercando così disperatamente. All'improvviso inciampai in una pietra e caddi in avanti pesantemente. Alzai gli occhi pesanti e doloranti nelle tenebre e così facendo pronunciai un'esclamazione di ringraziamento. Un esile raggio di luna, non più spesso di una freccia, veniva verso di me e mi indicava che alla fine avevo raggiunto ciò che cercavo. La vista degli alberi e del cielo mi calmò. Ritornato alla vita, il conte decide di assumere una nuova identità e si imbarca per Palermo. Il capitano della nave sa che lui ha qualcosa da nascondere e per imbarcarlo gli chiede più del dovuto. Eppure il conte mostra di apprezzare l'onestà degli italiani, soprattutto se confrontata con la freddezza calcolatrice degli inglesi. Gli porsi la mano e lui la prese con aria di rispetto, compassione e vera cordialità. Eppure, direte, mi aveva chiesto più del dovuto per imbarcarmi. Sì, ma non mi avrebbe reso oggetto di curiosità per 20 volte quella cifra. Non riuscite a cogliere queste contraddizioni nel carattere degli italiani? Nella stessa circostanza, la strategia del settentrionale calcolatore sarebbe stata quella di estorcermi più denaro possibile, per poi filare dritto alla più vicina caserma di gendarmeria a descrivere il mio aspetto e le mie maniere sospette. Con il raro tatto che contraddistingue i meridionali, invece, il capitano cambiò discorso, parlando del tabacco che stavamo entrambi fumando. Nel libro ci sono altri episodi nei quali invece gli italiani non escono altrettanto bene dal confronto con gli inglesi, come ad esempio quando il conte, una volta tornato a Napoli, corrompe un editore affinché pubblichi sul suo giornale un articolo che lo aiuti ad inserirsi presso la buona società. L'editore esaudì il mio desiderio e inserì quanto gli chiesi, parola per parola. Mi inviò il quotidiano con il messaggio «Con i migliori auguri», ma senza una parola riguardo ai 50 franchi, per quanto sono convinto che li abbia intascati con gioia sincera. Se avessi inviato il doppio del denaro, avrebbe potuto annunciarmi come un re o un imperatore in incognito. Gli editori di giornali dicono di essere uomini d'onore, ma questo succede forse in Inghilterra. In Italia, la maggior parte di loro farebbe qualsiasi cosa per denaro. Poveri diavoli, come dar loro torto, considerando le loro entrate limitate? Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Mary Corelli, Vendetta, Gargoyle Editore, 345 pagine, 15 euro.